Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Al di là di ogni considerazione sul buon gusto, mi domando se possa essere deontologicamente corretto per un giornalista professionista proporre, come hanno fatto a Canale 5, un servizio video su Mesiano, il giudice che nei giorni scorsi aveva condannato Fininvest al maxi risarcimento di 750 milioni per il lodo Mondadori. Il servizio non ci spiega niente e non fa che dileggiare voyeuristicamente una persona per il suo abbigliamento e per i suoi atteggiamenti quotidiani. Noi italiani intelligenti avremmo preferito un servizio dove veniva spiegato, con argomenti seri, perché la sentenza del giudice fosse sbagliata. Io sono convinto che in Italia ci sia tutta la libertà di espressione necessaria. Non siamo in nessun regime di informazione. Siccome però i media sono uno strumento importantissimo nel contesto di una società, non credo che debbano peccare di serietà e dileggiare gratuitamente chiunque. Possono anche essere di parte, i media privati naturalmente, perché ognuno ha diritto ad avere le proprie idee, ma non possono permettersi di essere poco seri. Gennaro. Perché un cittadino che vince alla lotteria può essere pedinato, osservato e fatto oggetto di innumerevoli indagini giornalistiche da parte di tutta la stampa? E che scandalo c'è nell'osservare un giudice diventato protagonista per il suo indiscusso lavoro? Antonio. Il servizio sul giudice Mesiano è solo un servizio un po' sciocco legato a un fatto di cronaca. Un servizio alla novella 2000. Sarebbe stato grave se lo avessero fotografato e registrato dentro casa sua, mentre in privato festeggia con i suoi amici, come è stato fatto con Berlusconi. Ma nel caso di Mesiano, per fortuna, non è successo. Carlo. Che Berlusconi si procuri del piacere a pagamento o meno, sono inequivocabilmente fatti suoi, purché nel rispetto delle leggi e delle persone, e a condizione che tali comportamenti non pregiudichino il suo operato di premier. Mi trovo infatti nella scomoda posizione, in quanto elettore di sinistra, di dover difendere il mio poco amato premier dai ripetuti tentativi di delegittimazione, facenti leva sulla sua sfera privata e i suoi discutibili gusti sessuali, perché serve, a mio parere, a riportare la questione dell'opposizione su un piano più concreto. Serve a ricordare ai vari Franceschini, Bersani, Dalemiani, Fassiniani e Rutelliani che stiamo perdendo voti e una marea di opportunità per contrastare realmente questo governo. Stiamo diventando dei lagnosi antipatici che lamentano la presenza di un regime senza libertà di stampa, alla mercé di televisioni possedute dal diavolo e di giornalisti prezzolati e faziosi, adducendole a scuse per il nostro immobilismo. Recentemente il governo ha mostrato dei mostruosi punti deboli. Vogliamo ricordare l'incredibile concatenazione di tragedie come quelle dell'Aquila e le costruzioni poco antisismiche di Viareggio e gli scarsi controlli ferroviari e di Messina e le sue costruzioni abusive, tutte vicende contrassegnate dalla mancanza oggettiva dello Stato e soprattutto del governo. Vogliamo ricordare l'introduzione di normative come lo scudo fiscale, come il lodo Alfano e ancora le vicende irrisolte e oscure come la TAV, il testamento biologico, l'equiparazione delle convivenze di fatto, l'evasione fiscale e via col vento. Berlusconi, dai primi anni Ottanta, ci rimbambisce con le sue televisioni, ci mostra ragazzine dotate e denudate, manovra denari e conquista cuori e portafogli, mostrandosi come il più figo degli imprenditori. Ed il risultato oggi, a 30 anni di distanza, è che persino gli extracomunitari lo voterebbero, a dispetto dei loro interessi. Allora, che vogliamo fare? Continuare a gridare che Berlusconi è brutto e cattivo e gli piacciono le ragazzine? O cambiare linguaggio, lasciandolo nel suo brodo di gigolò dei tempi passati e attaccare il governo intero, guardando a come la Lega carpisce i voti e i favori di quel nord razzista ed ignorante, di come trasformano prospetti negativi come quelli indicati dall'OCSE in un futuro dai contorni rosei e in grande rimonta, di come plasmano i dettami della Costituzione facendosi un taglio su misura, promulgando leggi porcata, delegittimazione della magistratura o depenalizzazione del falso in bilancio. Insomma, quisquiglie di fronte alla Daddario. Beppe Ivrea. Egregio signor Fabi, non voglio fare lezioni di politica a nessuno e meno che mai di giornalismo. Vorrei solo portarle a conoscenza qualche mia personale esperienza, che riassume in sé tutte le contraddizioni di questo governo e di questa opposizione. Sono il padre di un bimbo di colore che ho adottato, figlio di una clandestina. Bambino che cresce magnificamente in perfetta integrazione ed armonia. e lascio a lei immaginare i sentimenti che provo verso questa povera donna, chissà come è venuta in Italia, e di quanto sia stato doloroso per lei staccarsi dal suo bambino, chissà che fine ha fatto. Sono lo chef di un albergo dove lavoro in perfetta armonia ed integrazione con un marocchino musulmano e varie rumene, che non mancano ogni giorno di sgretolare con i fatti tutte le maldicenze ad opera di questo governo, soprattutto di una parte, perché non solo sono dediti al lavoro in modo serio e professionale, ma hanno grande cognizione di causa, sanno sacrificarsi, capire ed essere affidabili. Lei ne trova molte così? Sono dipendente di strutture alberghiere di vario genere da ormai 25 anni. Non conosco orari di lavoro, né sindacati, né tutele di qualunque tipo. Lavoro per campare la famiglia, come lei, come molti, e non ho la possibilità come i parlamentari di aumentarmi per legge lo stipendio. Lei che dice? Sono scemo io o sono furbi loro? Sono un elettore afflitto di sinistra. Ho votato Partito Comunista per una vita. Voterò a sinistra, ma mi trovo a fare il tifo per Fini. Mi trovo a sperare in un governo di centrodestra retto da Fini, perché a sinistra c'è il nulla. E ho più paura di vedere un Bersani retto dai soliti fanatici post-comunisti retorici e inconcludenti e da qualche erede del Mastella inquisito, che gli fanno fare la fine di Prodi, che vedere il presidente della Camera sorretto da una maggioranza forte, magari senza la Lega, che riesce una volta per tutte a fare delle riforme. Tutto quello che vuole, purché cessi questo immobilismo servile ed inutile, spalmato di sesso facile, scudi fiscali e stupidaggini di vario genere. Una famosa frase di Abramo Lincoln recitava: «Puoi fare fesso uno tutte le volte». Puoi fare fessi tutti una volta, ma non puoi fare fessi tutti tutte le volte. La dedico al Premier e anche all'opposizione, se c'è. Giuseppe, provincia di Torino. Buongiorno, signor direttore. Le scrivo in merito alla lettera inviata da un'ascoltatrice, letta per radio alcuni giorni fa, che dissertava in merito al fatto che non sia giusto pagare le tasse allo Stato. Nessuno ha messo né mette in dubbio la libertà di espressione. Non lo ha fatto l'ascoltatore che ha risposto a questa lettera. Non lo faccio io. Non lo fa nessuno dotato di senso civico e democratico. Ma quello che è importante è rimarcare quegli spunti, per non dire valori, di democrazia che ultimamente sembra si stiano dimenticando in massa. Faccio un esempio. Se vivo in un condominio e non pago la retta condominiale perché ad esempio la ritengo troppo alta, cosa accade? L'amministratore si organizzerà certamente per ricorrere alle vie legali nei miei confronti. Ma prima ancora di questo, per onorare le scadenze condominiali, gli altri condomini si vedranno accollare, oltre alla propria, la quota parte da me non pagata. In caso contrario, l'intero condominio vedrebbe, diciamo, come minimo compromessa la fruizione di servizi necessari. Nei casi estremi, nel caso cioè in cui il comportamento, preso ad esempio, dilagasse su più condomini, il condominio potrebbe arrivare a vedersi tagliare la luce, l'acqua o il gas, eccetera. È proprio questo il punto. Possiamo, anzi dobbiamo lamentarci per le tasse elevate attraverso gli strumenti che la democrazia ci mette a disposizione, ma non per questo abbiamo il diritto di comportarci in maniera innanzitutto incivile e irrispettosa nei confronti di chi fa parte del nostro stesso consesso civile e le regole le rispetta. In altre parole, da cittadini di uno Stato democratico non dobbiamo permettere che un comportamento arrivi a nuocere alle persone che si comportano secondo le regole che qualunque organizzazione civile si dà. Discorsi come quello della signora, se lasciati passare senza una confutazione, sono veramente pericolosi. I cittadini onesti e corretti, che sono molti, sono già abbastanza insultati da chi ci governa, e non parlo di questo o quel colore di governo. Sono ormai troppi anni che chi governa, chiunque sia, non ha più né la forza né la credibilità necessarie a far sentire il cittadino onesto tutelato. Mi piacerebbe appellarmi a tutti i cittadini dalle orecchie non passive. Interveniamo sempre in difesa di quelle che sono, prima ancora che regole costituzionali o legislative, regole di corretta convivenza civile. Ribelliamoci sempre contro chiunque voglia rendere l'illecito e l'illegale un qualcosa di permesso e moralmente accettabile. Quello che ha detto la signora non è un lamentarsi di tasse troppo alte, è, né più né meno, un insulto a chi si comporta onestamente in un consesso civile. Maria Teresa. A proposito del regista Renzo Martinelli e degli ostacoli vergognosi che sta incontrando dopo il suo film Barbarossa. Venerdì scorso, davanti al cinema Adriano di Roma, un picchetto della CGIL ostacolava il pubblico del cinema distribuendo volantini con false notizie, che parlavano di 30 milioni di dollari di denaro pubblico. sono solo menzogne e calunnie. È vergognoso come si debba etichettare politicamente il lavoro di un bravissimo artista come Martinelli. Questa è la libertà, vista da una certa sinistra. Barbarossa, interpretato magistralmente dagli attori protagonisti e non, è un colossal italiano come io non avevo mai visto. E Bruno Vespa si è rifiutato di invitare il regista a porta. Preferisce chiamare Alba Parietti o Christian De Sica. Marco. Gentile direttore, in questi giorni si è alzato un polverone sulla possibile istituzione di un'ora di religione islamica nelle scuole. Sinceramente, non mi sembra del tutto fuori luogo prevedere che gli studenti che non frequentano l'ora di religione cattolica possano chiedere di partecipare a corsi alternativi, con insegnanti comunque iscritti nei ruoli dei docenti, e che possano insegnare storia o filosofia delle religioni. Uno Stato democratico dovrebbe garantire il diritto delle maggioranze, che infatti chiedono l'ora di religione cattolica, ma anche quello delle minoranze, inserendo queste richieste nell'ambito del progetto formativo della scuola e delle famiglie. Luigi. Caro Luigi, le sue considerazioni sono ispirate da un sano realismo e partono dalla considerazione del fatto che la società italiana sta cambiando con una dimensione multietnica. Una dimensione che può essere positiva solo se viene vista nell'ottica di una costruttiva integrazione. Ecco quindi una doppia necessità: rispettare la libertà religiosa e quindi anche la libertà delle famiglie di educare in questa prospettiva i propri figli, ma insieme rispettare e consolidare quell'identità nazionale che è fatta anche di valori umani fondati sulla tradizione religiosa. Il compromesso non è facile, ma è indispensabile. Un compromesso che deve partire dal considerare la dimensione religiosa come parte integrante della formazione umana e dell'integrazione sociale. Questo vuol dire aprire le scuole anche alle altre espressioni religiose, ma con questo rendere ancora più forti e più visibili la presenza e l'identità delle radici cristiane. L'esatto contrario di chi vuol servirsi dell'apertura all'Islam come cavallo di Troia per espellere ogni religione dalle scuole, con il risultato di mortificare, invece che esaltare, i diritti di ciascuno. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.